Night Rider. The Night Walker. And now, a warning from William Castle, producer of The Night Walker. Io non ho tempo, sento astento, comprendo che se volendo non scrivo il proseguimento. Restando in sto mondo spento, non sento la musica al momento, sto procedendo a stento per l'unica cosa che rappresento. E ogni quarto mi passa nella testa più veloce, sento i battiti del tempo e poi li riempo con la voce. È come un treno fantascienza, se Baclo rappresenta questo suono, chiude in tempi serrati dalla partenza. Dispensa rinascenza, l'atmosfera tesa lenta, senza peli sulla lingua si raggiunge l'indecenza. L'occorrenza, non mi occorre di chiedervi se funziona. Rapper colpe di grid da MC, ma di Savona, dove impari a calcolare il tempo e segui delle forme. Di notte sui fogli mentre la gente dorme. Io sono un alchimista, liricista, matematico, e vista la tua rivista resto in questo tempo salico. È un tempo salico, stringe come l'emostatico, stringe le vostre orecchie dentro il battito in un attimo. Tutto sembra sfuggire, non riesci neanche a capire l'importanza di stemmare la chiave di queste rime. Tempo salico, man, chiude in quattro quarti. Più salico per chi non ci sta dentro e sono scarsi. Quegli altri che ascoltano restando sotto i palchi, chi tirano sulle mani per sti suoni pesanti. Suoni pesanti quanti? Se io vi dico tanti, sono tanti come istanti al calendario dopo piace. Questa musica descrive la mia vita, questi tempi si è appuntita la punta della matita. E fra, ci resto dentro come un nucleo con la capsula. Voci restate sotto come i VIP con Vergassola. Tasse di successione su tempi di suoni ancora. Con l'ardore nel mio cuore restringo la percezione. Qui sogni ancora più seri su tempi a te delle tele. Se speri che tu ci raggiungi, ma è iniziato solo ieri. Ci scleri se senza freni passi. Passo forte come i treni, diti medi su sti vetri con la cricca degli alieni. Extrasensoriali, i miei testi più casuali. Sento le vostre barre, vi guardo, fate gli indiani. Non state neanche a tempo con le strofe rallentate. Grasso su questo tempo vi sfonda di fucilate. È un tempo salico, stringe come l'emostatico, stringe le vostre orecchie dentro il battito in un attimo. Tutto sembra sfuggire, non riesci neanche a capire l'importanza di stemmare la chiave di queste rime. È un tempo salico, man, chiude in quattro quarti. Più salico per chi non ci sta dentro e sono scarsi. Gli altri che ascoltano restando sotto i palchi, tirano sulle mani per sti suoni pesanti.